giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Lavoro nel giorno dello sciopero dei metalmeccanici, presidi degli operai davanti a Varzile, Electrolux. Le frecce tricolori di nuovo nei cieli della regione, sorvola a Trieste, domenica air show a Lignano. Si finge malata e fa sparire 80.000 euro dal conto corrente di un anziano, donna arrestata ad Aviano. Architettura e sensibilità tipiche dall'Università di Trieste, progettazione su misura per persone con autismo. Lavoratori somministrati della sanità in agitazione, incontro in prefettura a Trieste per ottenere i mancati pagamenti. Tempo stabile in regione per il fine settimana, con temperature sopra la media, previsti solo brevi rovesci in montagna. 12:31 minuti, buongiorno da Maria Spezia e Rita Micoli. In apertura ai temi del lavoro, con lo sciopero nazionale dei metalmeccanici, diverse le crisi e le vertenze aperte in Friuli Venezia Giulia, a partire da Varzila, oggi presidio a Bagnoli della Rosandra. Ci dice tutto dallo studio Antonio Di Bartolomeo. Per i sindacati l'adesione allo sciopero di ottobre in Varzile è attorno al 90%, più complesso stimare la partecipazione in tutte le altre aziende metalmeccaniche dove l'astensione dal lavoro è di 4 ore. Per l'occasione i sindacalisti di Trieste e Gorizia si sono dati appuntamento davanti ai cancelli di Varzila per esprimere la loro solidarietà. C'erano RSU dalla Flex, di Fincantieri, di Leonardo, solo per fare alcuni dei nomi presenti. Gli oltre 300 lavoratori Varzila in esubero sono pagati al 100%, ma non hanno più niente da fare praticamente in fabbrica. Per questo l'azienda vuole un accordo sugli ammortizzatori sociali. Dopo il fallimento dell'ultimo tavolo, il governo tenta una nuova mediazione anche per allungare i tempi dei licenziamenti, ma accolgono con freddezza l'iniziativa i tre segretari nazionali di FIOM, FIM e WILM presenti al presidio. Vogliono sentire prima di tutto la parola reindustrializzazione, una reindustrializzazione annunciata, promessa dal governo. La transizione energetica ed ecologica è una delle sfide dell'economia oggi ed è uno dei motivi di questa mobilitazione nazionale che oggi vede appunto il Nord mobilitato. E il futuro dello stabilimento Varzila potrebbe essere legato proprio al tassello, un tassello dell'energia pulita, cioè l'idrogeno. Ringraziamo Antonio Di Bartolomeo per averci aggiornato in diretta e proseguiamo con le altre notizie del nostro giornale radio. E dopo anni anche i lavoratori Electrolux sono scesi in presidio davanti ai cancelli dello stabilimento di Porcia. Per i sindacati l'adesione allo sciopero di 8 ore in Varzile è attorno al 90%, più complesso stimare la partecipazione in tutte le altre aziende metalmeccaniche dove l'astensione dal lavoro è di 4 ore. Per l'occasione i sindacalisti... Scusate, c'è stato un errore nella diffusione del servizio, adesso possiamo mandare in onda il giusto servizio, grazie. Siamo ancora qui, non la molliamo perché la fabbrica appartiene al territorio prima che alle multinazionali. A 10 anni dall'ultimo presidio, lavoratori e lavoratrici dell'Electrolux di Porcia sono tornati fuori dai cancelli della fabbrica nel giorno della mobilitazione nazionale dei metalmeccanici. Chiedono chiarezza su volumi, occupazione e prospettive per il futuro dello stabilimento. Se lo immaginava di tornare fuori dai cancelli? Sì, purtroppo sì. Che cosa la preoccupa di più? L'incertezza. Quella volta avevamo delle speranze, perché bene o male producevamo ancora 1,5 milioni. Sono 2 anni che siamo sotto i 600.000 precature. Quanto siete legati a questa fabbrica? Tantissimo, siamo cresciute qui dentro. Non ci dà nessuna certezza per il futuro, per esempio per noi giovani. Manca la certezza di lavoro, manca tutto. Nel piazzale l'appello dei sindacati RSU, aziendali, Confim, FIOM e WILM, presenti anche con le segreterie nazionali. Simonetta Chiarotto per la FIOM. Il settore dell'elettrodomestico è in grande crisi in tutta Europa. Per noi l'Electrolux è il simbolo della crisi nel territorio. Gianni Piccinin, FIM CISL. Per noi è importante questa impresa per il futuro, per tutto l'indotto. Qui c'è un problema, ci confronteremo lunedì pomeriggio, che è la questione della cassa integrazione per il mese di luglio. La stiamo finendo. Roberto Zami, WILM. L'appello che facciamo al governo è un appello già fatto, che convochi al più presto le parti sociali, che discuta con noi come rendere competitivi gli stabilimenti. Non possiamo pensare di farlo ancora con un ridimensionamento della base occupazionale e della nostra capacità di produrre volumi. Porcia, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Stagionale e discontinuo è il mercato del lavoro nel comparto turistico in Friuli Venezia Giulia, seppure in forte crescita, con un peso del 70% sulle oltre 30.000 assunzioni previste tra luglio e settembre. A dirlo è l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro. Oltre il 60% delle assunzioni riguarda la classe dai 15 ai 34 anni, elevata la quota di lavoro a termine, pari al 53%, e del lavoro intermittente o chiamata, che è quasi il 30%. La durata media dei contratti è di 100 giorni contro una media regionale di oltre 150 giorni. Il settore turistico ha una grande rilevanza per l'economia e l'occupazione in regione. Nel 2022 gli occupati registrati dall'Istat erano oltre 96.000, in crescita di oltre l'1% rispetto all'anno prima e di oltre il 3% rispetto al 2019. Si tratta del 18,6% degli occupati in regione, percentuale simile agli anni precedenti. Forte la contrazione nel 2020 per la pandemia. La maggioranza degli occupati sono donne, 53,2%. Le prospettive per la stagione attuale sono incerte, nota l'Osservatorio, per le limitate presenze di italiani e stranieri dovute all'incidenza dell'inflazione sui consumi delle famiglie. La cronaca giudiziaria: il pubblico ministero di Udine Giorgio Milillo ha disposto accertamenti tecnici irripetibili sui resti dell'aereo ultraleggero caduto in alta valle del Torre sopra l'Usevera lo scorso aprile. Nell'incidente morirono il pilota delle Frecce Tricolori, Alessio Gersi, e un suo parente, Sante Ciaccia. L'incarico è stato affidato dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo all'azienda Air Support International di Torino. Giovedì i resti del Pioneer 300, custoditi in un hangar in Friuli, saranno prelevati e imballati con l'apposizione dei sigilli da parte della NSV. A metà settembre i resti saranno esaminati dagli esperti dell'azienda incaricata, alla presenza di consulenti tecnici che le parti offese e le difese degli indagati potranno nominare. Ricordiamo che gli indagati per l'incidente aereo di Lusevera sono 3. Ancora cronaca, un'ordinanza di misura cautelare in carcere eseguita dai carabinieri di Aviano nei confronti di una quarantenne pordenonese. L'arresto è arrivato al termine delle indagini coordinate dalla procura di Pordenone dopo la querela sporta a marzo da un'ottantenne che si era visto ripulire il conto di un importo di circa 80.000 euro in pochi mesi. I militari hanno in breve identificato l'autrice delle operazioni, circa 60 eseguite utilizzando indebitamente la carta di credito della vittima, che la donna era riuscita a circuire facendogli credere di soffrire di una grave malattia la cui cura richiedeva ingenti somme di denaro. La custodia cautelare in carcere è stata chiesta in considerazione del rischio della reiterazione del reato nei confronti di altre vittime. La donna era già stata notificata la misura del foglio di via per 3 anni. I carabinieri ribadiscono ai cittadini, soprattutto ai più anziani in difficoltà, di diffidare dagli sconosciuti che si propongono per ottenere prestiti e invitano tutti a rivolgersi al numero di emergenza 112 o all'arma. Cambiamo argomento. Puntuale alle 11 di questa mattina, le Frecce Tricolori hanno sorvolato Trieste. Prima una virata di avvertimento per richiamare l'attenzione del pubblico in Piazza Unità, sulle rive ma anche nel resto della città. Poi l'allontanamento verso il mare per il passaggio della formazione in figura a luna e i fumi tricolori che puntano verso la città. Il resto è stata una sorpresa, senza manovre acrobatiche ma con passaggi e fumi colorati. 6-7 minuti con il naso all'insù per il sorvolo nei cieli di Trieste, che ha segnato il ritorno delle Frecce Tricolori dopo la cancellazione a maggio del tradizionale air show di Rivolto, in seguito all'incidente aereo di Lusevera nel quale aveva perso la vita il capitano Alessio Gersi, Pony 5, insieme a un suo familiare. Poco dopo un altro lutto aveva colpito la pattuglia acrobatica nazionale, con la morte in un incidente stradale del manutentore del 313° gruppo, Vincenzo Barriale. I 10 velivoli hanno sorvolato la città nell'ambito dell'evento per i 100 anni dell'aeronautica militare, con la presenza del capo di Stato Maggiore dell'aeronautica. Ma le Frecce Tricolori saranno di nuovo in regione già domenica, con l'air show di Lignano Sabbiadoro sullo specchio d'acqua antistante l'Arenile a partire dalle 16.30. Il 2 agosto, infine, il Grado Air Show. Trieste, La Razzani, TGR Friuli Venezia Giulia. E torniamo a parlare di lavoro. Felsa, CISL e NIDIL, CGL in prefettura a Trieste hanno ottenuto un pagamento almeno parziale degli arretrati dei lavoratori somministrati della sanità. Rientrato lo stato di agitazione dei circa 200 lavoratori somministrati, contrattati dall'agenzia Tempor e impegnati nel sistema sanitario regionale. La situazione relativa alle retribuzioni di maggio è rientrata e i contratti in scadenza il 30 giugno e che riguardano prevalentemente una settantina di lavoratori della SUGI sono stati garantiti fino al 30 settembre. Per quanto riguarda invece le problematiche sulle quantificazioni, Tempor ha dato notizia di un prossimo incontro l'11 luglio con alcuni funzionari dell'Agenzia delle Entrate al fine di sanare definitivamente ogni errore dovuto, è stato detto, ad una diversa interpretazione tra agenzia e aziende sanitarie. Lo hanno comunicato i sindacati FELSA, CISL e NIDL CGL al termine dell'incontro in prefettura a Trieste con al tavolo la delegata del prefetto Beatrice Musolino, il rappresentante dell'agenzia in questione Matteo Saccavini e il direttore amministrativo di ARCS Daniele Baldi. Sul tema degli arretrati l'agenzia ha già assunto l'impegno di erogare un acconto minimo pari al 70% salvo conguaglio degli arretrati totali. Trieste, Vaciutti, GR Friuli Venezia Giulia. Al centro di riferimento oncologico di Aviano è operativo un nuovo mammografo digitale che l'istituto ha acquistato grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si tratta di uno dei primi progetti del PNRR giunti a conclusione nell'ambito sanitario. Il costo dell'apparecchiatura che sostituisce quella precedentemente in uso alla radiologia oncologica è di 151.000 euro, interamente finanziati attraverso i bandi del progetto Next Generation EU. Si tratta di un macchinario innovativo che consentirà l'esecuzione di diverse procedure di screening e diagnostica senologica, compresi gli esami di tomosintesi, ovvero in 3D, e l'esecuzione di biopsie guidate, ed è dotato di un software di intelligenza artificiale per calcolare la densità mammaria. E restando in argomento, una passerella d'eccezione questa sera Udine per Andos, che farà sfilare le pazienti oncologiche, i medici in capi da cerimonie da sposa per l'iniziativa Ieri, Oggi, Domani. Il fascino siamo noi, perché cancro sia solo una parola e non una sentenza. 29 modelle eccezionali, 2 uomini, 4 medici del CRO di Aviano e 2 del Centro Oncologico di Udine sfileranno insieme questa sera al centro di Udine. Fianco a fianco, come nel percorso di cura, saliranno in passerella per un'iniziativa di sensibilizzazione sul carcinoma mammario organizzata dall'ANDOS, l'Associazione Donne Operate al Seno di Udine, per celebrare il 36esimo anniversario. Dopo la sfilata dell'aprile scorso in abito da sposa, le donne che hanno superato o stanno combattendo il tumore calcheranno la passerella accompagnata da medici che le affiancano anche in questa avventura. Un evento per sottolineare quanto sia importante prendersi cura di sé nel corso della vita e attraverso le trasformazioni cui va incontro il corpo femminile. Mariangela Fantin, presidente Andos di Udine. Un'iniziativa dove vede anche stasera la sfilata con 30 donne, sia oncologiche che non, per stare tutti insieme per un obiettivo comune, che è quello della prevenzione, che è la cosa più importante che dobbiamo sempre sottolineare e mai dimenticarci. Un gruppo formato da 11 ragazzi dagli 11 ai 25 anni di età aprirà la sfilata al suono di musica hip hop. Paola Danielis. Voglio far vedere che durante le terapie o anche per chi è guarito ci sono alternative all'ospedale, il pensiero della malattia, c'è anche lo stare insieme fra tutte le donne che appunto hanno questo percorso alle spalle. La parola d'ordine sui tumori è prevenzione, perché di tumore al seno si può guarire. Carla Cedolini, responsabile di chirurgia senologica, azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Lo screening regionale in Friuli Venezia Giulia è tra i più seguiti in Italia, tra le nostre regioni. Inoltre le unità senologiche, cioè il gruppo di medici che lavorano per il tumore al seno tutti insieme nelle diverse specialità, costruisce un percorso di prevenzione mirata che si adegua alla singola persona. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Il meteo ora, il cielo è sereno, poco nuvoloso sulla regione, le temperature delle 11, a Trieste 26 gradi, mare poco mosso con temperatura di 24 gradi. A Gorizia e a Pordenone 27 gradi, a Udine 26, a Tarvisio 20 gradi, a Tolmezzo 23, a Forni di Sopra 20 gradi, a Sappada 20 gradi, sul Piancavallo 17, sul Monte Zoncolan 15 gradi, sul Monte Lussari 13, a Grado 27 gradi, Lignano 28, temperatura del mare nelle due località 24 gradi. Per le previsioni meteo del fine settimana ci siamo rivolti a Marcellino Salvador, esperto dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale. Per quanto riguarda il tempo nel fine settimana, avremo un'esplosione di nuovo dell'estate con i toni classici dell'estate, quindi sole e temperature che andranno aumentando e raggiungeranno i picchi massimi nel pomeriggio, ovviamente in pianura, e poi nelle giornate, in particolare tra domenica e martedì, in cui ci attendiamo massime che possono arrivare in pianura fino a 35 gradi. Sulla costa probabilmente si arriverà a massime intorno ai 30 gradi grazie all'azione della brezza che di pomeriggio mitica un po' il caldo. Caldo che però si farà sentire sulla costa nelle ore serali, quando ovviamente l'acqua del mare riscaldata non si raffredda come invece fa il terreno in pianura. Bel tempo anche in montagna, con solo la possibilità forse di qualche rovescio pomeridiano verso il cadore nelle giornate di sabato o domenica, ma è una possibilità veramente limitata e comunque a una zona proprio a ridosso del confine col Veneto. Per il resto appunto 4 giorni di sole, caldo in aumento come è classico in piena estate, con temperature che però andranno anche oltre i valori normali che si hanno appunto d'estate, raggiungendo picchi importanti. Quanto sono più alte le medie delle temperature? In questa seconda ondata di caldo, la seconda di questa estate, la prima l'abbiamo avuta a giugno, raggiungeremo con i 35 gradi in pianura valori superiori almeno di 5 gradi rispetto a quello che si dovrebbe avere normalmente nel periodo. A livello di valore medio direi 3-4 gradi in media oltre questo valore. Comunque sono valori importanti perché siamo già nei periodi più caldi dell'anno. La gravissima siccità dello scorso anno può dirsi ormai alle spalle, salvo condizioni eccezionali di cui a fine agosto i raccolti della destra tagliamento sono al sicuro. E quanto emerge dai primi dati forniti dal consorzio di bonifica Cellina a Meduna, dopo una fase a tratti estremamente perturbata. Le ultime piogge consentono ora una sospensione delle bagnature per circa una settimana, il che a sua volta permetterà ulteriori accumuli idrici in Val Tramontina. È infatti l'asta del Meduna quella che presenta ancora capacità di contenimento nei 3 laghi della zona. Il Cellina è invece già al riparo da razionamenti grazie ai bacini di Barcis e Ravedis. Tuttavia, sottolinea il presidente del consorzio Walter Colussi, le falde continuano a scorrere a profondità molto elevate rispetto alla media. Al momento calcoliamo una perdita di volume di circa il 30%, dice Colussi, con un peggioramento per i maggiori prelievi dell'estate, quando anche gli usi civici vanno aumentando. Sense Home, architettura e sensibilità tipiche, è il libro dedicato alla progettazione di ambienti per persone dello spettro autistico e altre condizioni di disabilità, che oggi è in presentazione a Trieste, l'antico caffè San Marco, alle 16:30. Tra i vari bisogni delle persone affette da spettro autistico, la necessità di spazi dall'acustica ottimale, senza troppo riverbero. Tra gli autori del libro, Giuseppina Scavuzzo, docente di progettazione architettonica della Facoltà di Ingegneria e Architettura dell'Università di Trieste, a cui abbiamo chiesto quali siano le difficoltà che si incontrano nella progettazione di spazi dedicati a persone dallo spettro autistico. La difficoltà maggiore è stato che lo spettro, appunto, si chiama così perché è estremamente ampio, quindi le persone che hanno diagnosi di autismo in realtà hanno delle caratteristiche molto diverse, sia per la loro sensibilità anche spaziale, che è quello che interessa più noi architetti e su cui noi possiamo lavorare, sia nelle loro possibilità di autonomia. Quindi ci sono delle persone con un ottimo livello di autonomia, persone che grazie anche a degli spazi appositamente progettati con alcuni supporti possono andare verso una maggiore autonomia, e persone che non raggiungeranno mai una autonomia completa, ma per le quali si può lavorare anche per migliorare le condizioni dei familiari, dei caregiver, eccetera. Quindi la maggiore difficoltà sta nel non poter utilizzare il progetto come forma di codificazione e nel dover lavorare anche a una grande flessibilità delle soluzioni. Quali sono i bisogni di persone affette da spettro autistico a cui una progettazione dedicata può venire incontro? I bisogni a cui andare incontro intanto in fondo non sono molto diversi da quelli delle persone che non sono nello spettro autistico, quindi non sono neuroatipiche ma neurotipiche. Le esigenze sono quelle di avere spesso degli spazi di maggiore tranquillità, di sosta, spazi di cui poi insomma tutti potremmo avere bisogno rispetto a un ambiente in cui siamo immersi che è molto sollecitante, molto a volte sovraccarico di rumori, di sensazioni, di immagini. Per cui uno spazio che sicuramente è necessario, uno spazio, se pensiamo agli spazi pubblici per esempio, di decompressione sensoriale. Segnaliamo ora alcuni appuntamenti culturali odierni. A Polcenigo, quinto appuntamento della rassegna I teatri dell'anima di Eta Beta. Alle 20.30 al vecchio mulino di Polcenigo, visita guidata al mulino a cura di Borgo Creativo, e alle 21 andrà in scena A mare acque dolci. Il Festival Internazionale Itinerante della Conoscenza Dialoghi fa tappa a Turiaco alle 21 in Piazza Libertà. I Drompe e il Luma accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale intorno al mondo. Nell'ambito di Udine Estate, alle 19 nella corte di Palazzo Morpurgo andrà in scena Messerschmitt, la smorfia della follia, lettura scenica del goriziano Mauro Fontanini. A Udine, nel Social Garden, spazio verde di Casaupa, Brucherone e i Pascoli, il duo proporrà una contaminazione tra i generi musicali alle 21. Sera Morsi scoprirà il nuovo canovaccio originale di Commedia dell'Arte, che debutterà a Tricesimo alle 18.30 in Piazza Ellero. A Casarsa, appuntamento con Piccoli Gesti, un incontro che intreccia arte e pensiero sul rapporto uomo-natura, alle 20.30 nell'antico frutteto di Palazzo Burovic. Stessa ora domani a Pordenone, a Palazzo Mantica. Varca il confine sloveno anche quest'anno la festa di poesia curata e promossa da Fondazione Pordenonelegge.it. Go25, Poeti sul confine, sarà alle 19 a Medana, in Slovenia, presso l'azienda vinicola Klinez. Primo appuntamento per la 7ª edizione del Festival a Prodi, che propone eventi multidisciplinari, dal teatro alla danza, dalla musica al cinema, in ambientazioni suggestive e inedite, alla ricerca di luoghi magici a Trieste e quest'anno anche a Gorizia e Nova Gorizia. Tema di quest'anno è Anudo, che propone ricerche di coraggio, vulnerabilità e autenticità con storie personali. Oggi il cartellone prevede lo spettacolo 900, dal libro omonimo dello scrittore Baricco, in scena a Trieste, alla terrazza del Circolo Marina Mercantile Nazario Sauro, alle 21. All'ideatore della manifestazione, direttore artistico Lorenzo Acquaviva, abbiamo chiesto una presentazione del tema di questa edizione del Festival. Mi piaceva specificatamente analizzare questo tema attraverso spettacoli artisti che hanno affrontato questa nudità, che ovviamente è nudità psicologica, emotiva, non è una nudità fisica, con tutta una serie di spettacoli. Oggi grande esordio con lo spettacolo 900, tratto dal libro di Alessandro Baricco. Quali sono gli altri appuntamenti a cui lei tiene in modo particolare della rassegna di quest'anno? Senz'altro l'esperienza che ho fatto 2 anni fa in piena pandemia nel film Il Canto del Pavone, di cui sono uno degli interpreti, che verrà presentato in anteprima italiana domenica 9 luglio. Il Canto del Pavone affronta un tema molto spinoso, che è quello della vendita di bambini a persone che non possono avere figli, cosa che nello Sri Lanka era e purtroppo ancora adesso è molto attuale. Qual era il messaggio che volevate trasmettere? Pushpa Kumara, che è appunto un regista cingalese, è un atto d'accusa del mondo occidentale che sempre di più cerca di sfruttare non solamente le materie prime ma anche le persone in qualche modo, ecco, anche i bambini. E poi c'è il contest di stand-up comedy, quale miglior modo per mettersi a nudo se non la stand-up comedy, che è il mercoledì 12. Comunque tutto il programma è sul sito del Festival a Prodi Trieste. Continua San Vito al Tagliamento la 7ª edizione del Piccolo Violino Magico, competizione che coinvolge giovanissimi talenti internazionali dai 7 ai 13 anni. Oggi alle 13.30 la proclamazione dei finalisti, che si sfideranno domenica, alle 17 invece al Teatro Arrigoni l'importanza della manutenzione negli strumenti ad arco a cura dell'Associazione Liutaria Italiana. quartetto di chitarristi Forty Fingers che state ascoltando in sottofondo sarà protagonista della quinta edizione del concerto del risveglio di Udine. In scaletta le rivisitazioni e i riarrangiamenti di celebri brani rock, pop e colonne sonore di cinema e serie TV, con successi come Sultans of Swing, Africa, Sound of Silence, Bohemian Rhapsody e Last of Mohicans. Appuntamento nel Piazzale del Castello alle 7. Altra iniziativa musicale del mattino è il concerto dell'Alba di Trieste con i solisti della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, che eseguiranno partiture barocche di Antonio Vivaldi e di Georg Philipp Telemann. Appuntamento al Castello di Miramale alle 5.24 di mattina. L'immaginario scientifico di Trieste prolunga l'orario di apertura dalle 18 alle 21, oggi il 21 luglio, l'11 e il 25 agosto, in ogni serata alle 18.30, Rolling Science, brevi approfondimenti al volo su astrofisica, neuroscienze e psicologia. Evento collaterale alla mostra Italia 50 Moda e Design, nascita di uno stile, esposizione in corso a Palazzo Atem Petzenstein di Gorizia. Alle 19 i curatori della mostra condurranno i presenti in una visita guidata nel percorso espositivo. Alle 20.30 il concerto Italian Vintage Live Band anni 50 nel giardino di Palazzo Atem Petzenstein. Per itinerari a Udine, visita alla storica farmacia Antonio Colutta, al laboratorio di mosaico moderno Carraro Ciabaric e agli antiquari della città alle 18. Prima festa alpina per l'Emilia Romagna Duino Arusina, oggi e domani a Sistiana, mostre fotografiche, piantumazione dell'olivo, visita guidata al Mitreo, presentazione di libri, testimonianze sui 100 anni delle sezioni ANA di Trieste, Gorizia e concerti. Allestiti lo stand della solidarietà per l'Emilia Romagna con prodotti tipici di aziende colpite dall'alluvione. Ed era l'ultima notizia di questa edizione meridiana del giornale radio regionale, in regia Bruno Montevecchi e Andrea Fontanot. In redazione ha collaborato Edoardo Veglia. Da Maria Spezia e Rita Micoli, grazie per l'ascolto e l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.